ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Quarta puntata. Tornato a casa, messosi a letto, Ferranini stette male, ma male parecchio, da meravigliarsi che la pompa gli andasse ancora. Peggio dell'ultima volta. L'ultima volta quando? Marzo o aprile, sempre al cambio di stagione. Ma peggio stavolta, molto peggio. E le grosse familiari imprecazioni padane, porca vita, porca matina, stavolta non gli vennero in bocca. A metà pomeriggio arrivò su la sua amica. Aveva aspettato la solita telefonata, stava in pena. Era a letto, nel viso una filatura che glielo ringiovaniva pietosamente. Voltato sul fianco, il riflesso della lampadina posava sulla nuca esile e lei stentò a riconoscerlo. «Walter, sei matto? Cosa succede?» Gli occhi che la guardarono avevano ancora un'espressione di meraviglia e di paura. Nuccia non se la dimenticò più. Aveva avuto paura. La stretta era stata troppo lunga, troppo brutta. Con una consapevolezza desolata che gliene aveva fatto anticipare, misurare tutti i momenti, il dolore dal collo alla spalla, il preavviso prima di mettersi a letto, lo sprofondare della pressione, l'avventarsi e il lesinare della pompa, l'affanno che diventava soffocazione e lui lucido a ripetersi i termini tecnici, bradicardia, dispnea e disperato. Non voleva crepare in quella stanza, al buio, solo, senza un aiuto. Era troppo miseria. Il rumore che faceva respirare non gli sembrava di essere lui, sembrava una macchina. L'acqua zuccherata, la coramina, le aveva lì e non riusciva a sollevarsi tanto da prenderle. Eppure tutto era presente, era chiaro. A mezzanotte lo sbattere delle persiane al piano di sotto, qualcuno era tornato a casa. Lo angustiava il buio. Credeva di essere al buio, non si accorgeva della lampada accesa dietro la sua testa. Stava attento a sentire le ore e sentì battere i quarti dal campanile sino all'una. Quel senso lo aveva intatto, anche acuito. La goccia d'acqua che cadeva fuori della porta sul pianerottolo, anche allucinato ogni tanto. Una voce che gli ripeteva, e lui sapeva che non doveva crederci, era un sogno, delle parole come di rimprovero. Una voce nota. Doveva essere Nancy. Che cosa seguitava a dirgli? Ma l'aria, intanto. L'aria. Sino dopo l'una, la soffocazione aumentò. Invece, e se ne rendeva conto, lo sforzo muscolare riflesso della respirazione calava poco a poco. Lo spasimo che gli sollevava il torace, pensò, adesso ho finito. Sudava la fronte e il mento. Ci si era passato il fazzoletto. Poi non aveva più potuto alzare il braccio. Il fazzoletto umido gli rimase sulla spalla. A mattino fatto, non c'era nessuno che si incaricasse di chiamarlo, di portargli il caffè. Dormiva, buttato sulla seggiola vicino al tavolino, la testa premuta sul tavolino, le braccia sconsolatamente allungate sulle sue carte. Si svegliò e la sorpresa di trovarsi lì, a quel modo, fu più importante dell'angoscia da cui veniva fuori. Stava già dimenticando. Il respiro tornava normale, solo un gran freddo e la mancanza di forze. Il dolore al collo ridotto a un indolenzimento. La stretta, l'attacco, era passata e Ferranini, miocardico recidivante da un quarto di secolo, aveva una discreta ripresa organica, una reazione psichica persino troppo rapida. Del resto pronto a tutto e senza passività fatalistica, ma poi anche ottimista sulla sua pelle. A curarsi non si decideva e nemmeno a premunirsi, ad assicurarsi qualche assistenza non ci aveva mai pensato, eppure in marzo, quando gli capitò in casa di Fubini, il caffè che la mamma di Oscar gli aveva portato a letto era valso bene, in via suggestiva, ad accorciargli l'attacco. Faceva assegnamento sulle autocompensazioni, sulla sostanziale semplicità dei suoi costumi, sulla mediocre appetibilità della sorte che gli era toccata. Convinto che i malanni non hanno fretta di portarsi via la gente che a questo mondo non se la gode troppo. In certi casi l'attacco gli si preannunciava, di solito il dolore al collo, alla spalla. Allora, coricandosi, si preparava un bicchiere d'acqua con qualche quadretto di zucchero, il suo tonico cardiaco di primo intervento e la coramina dopo l'ultima esperienza in marzo. Ritornò a letto. Non si sentiva di aprire la finestra. La debolezza era in realtà estenuazione. Il polso, se lo tastò, restava poco meglio che filiforme. Trascorse ore a cercare di decifrare le parole che aveva sognato, strane parole che qualche cosa dovevano significare. The busiest muscle. Il muscolo più attivo. Nella camera fredda arrivava sì e no dal cortile il rumore dei ferri di Giordano che lavorava. E infine quelle parole si sciolsero. Una sera d'inverno del 42 rientrava a Camden, Pennsylvania, dal lavoro e nevicava. Aveva avuto un malessere mentre era in auto e lo avevano portato al posto di polizia. Lo sospettavano ubriaco e fecero venire il medico. Adesso l'episodio si lasciava ricomporre minutamente. Il medico era un polacco, un povero diavolo anche lui, con la cravatta lisa e la borsetta sdruscita. Lo visitò con scrupolo, come si farebbe con un cliente, poi disse, tenendogli puntato l'indice sul petto, «Well, man, what is wrong with you is the busiest muscle in your body». The busiest muscle, il cuore sfessato. A 28 anni. Buttò in faccia al dottore un ironico «Yeah?», ma non era sincero. Quello lo guardava con simpatia, a farsi perdonare la cattiva notizia. «Da ragazzo hai lavorato duro? Ho fatto il facchino? Fa attenzione. Se c'è il blizzard, non andare tanto in giro». Nel sogno, e c'è chi i sogni li piglia sul serio, lui le parole del dottore polacco le prestava a sua moglie. Lui che si sarebbe lasciato impiccare prima di confessare a Nancy «sono ammalato». In 2 anni di matrimonio Nancy non gli aveva chiesto una volta con un briciolo di interesse «come stai?». Per mezza giornata, nella penombra umida della camera, Ferranini seguitò a masticare pensieri amari. Nuccia, arrivando, lo trovò con la bambina del portinaio. La bambina sulla seggiola vicino al letto che lo fissava in silenzio, immobile, gli occhi spalancati. E lui sul fianco che fissava la bambina accigliato e in silenzio. Se ne stavano così da un gran pezzo, quei due, che non avevano niente in comune e tuttavia in qualche curioso modo si comprendevano. Gli aveva aggiustato il letto e acceso la stufa elettrica, la bambina la mandò via e intanto cercava di farlo parlare. «Niente», fece Ferranini, che con quella negazione volentieri apriva la bocca. «Un po' di stanchezza da smaltire. E tu cos'hai?» «Il tuo collega, Amoruso, è medico. Fatti visitare da Amoruso». «Lo so da me quello che ho. Sono bolso, ho 45 anni sonati». «Non puoi ridurti a questo. Hai 2 occhi che chiedono pietà, sei riconoscibile. Tu mi prometti, non prometto mai niente a nessuno. Piuttosto, devi dire giù al bar che mi mandino un latte e 2 panini. Oi, domani voglio andare a Reggio». E il giorno dopo, la camera si era aggiornata a fine settimana, partì. Rimesso passabilmente. Non restava che l'indolenzimento al collo. A Termini, il controllore, che era della sezione Quarticciolo e lo conosceva, gli ricordò che il rapido a Reggio Emilia non fermava. «Ma non ci pensi, avverto il capotreno, si fa una fermata di servizio. Lei sta pronto?» Ferranini si arrabbiò. «Scherzate, non si ferma un treno per un individuo. Fosse il compagno Khrushchev, mi spiego?» Prese il rapido e cambiò a Bologna. Qui il Nord lo ricevette con la nebbia, senza fargli piacere. Quella sua nebbia che di solito ne pativa la voglia e sarebbe tornato in su anche solo per ritrovarla. Come fu a Reggio, scese dal treno nello stesso punto in cui una sera, sotto la pensilina, doveva essere il 49 o 50, aveva tenuto un comizio a un gruppo di ferrovieri in sciopero. Aveva chiuso con le parole: «Nel comunismo occidentale ci sono due centri dinamici, Catalogna e Emilia». Nemmeno di questo fu contento. «Ne ho fatta della retorica anch'io». Andò subito in federazione e direttamente dall'amico Fubini. Era in programma Favellara la mattina. Alle 10 vennero a prenderlo i due Bignami. Stava entrando nella Dauphine di Vittorio quando qualcuno gli si fece incontro. In tweed e flanella, alto, elegante, spigliato, Viscardi, l'aspirante federale. La guida del proletariato nella Kiev italiana era affidata a gente così. «Ferranini, perbacco! Sei a Reggio una volta al mese e non ti fai vedere. Vieni dentro un momento, ho da parlarti». «Di che si tratta?» ribatté ormai diffidente. «Politica, si capisce. Oggi vado dal prefetto e tu mi accompagni, ti spiego. Ci sediamo un istante nell'atrio». Gli passò il braccio intorno alla spalla, lo spinse dentro. «Già che ci sono, ti voglio dire della mia posizione in federazione. Ho trovato un ambiente ostile, mi tocca guardarmi da tutte le parti. È bello questo? È nell'interesse del partito?» «Le posizioni personali non mi interessano. Dovevi parlarmi di politica, sentiamo». «Ma se ti parlo di me, anche questo è politica. Mi chiamate a Reggio, mi date una responsabilità, datemi i mezzi». Ferranini si alzò. «Salve, me ne vado». «Diavolo, un momento! Dai, vengo all'altra faccenda». «Dunque, la sede dove ci troviamo è insufficiente, invecchiata come tu sai. Ora per lavorare ci vuole spazio, respiro, qualche comodità. Ho fatto preparare un progetto di rialzo dello stabile. Lo aumentiamo di un piano. Agli uffici del comune non ci danno il permesso, con il pretesto del piano regolatore. E sì, perbacco, che il sindaco è comunista, la giunta comunista. Beh, io giro l'ostacolo, mi sto procurando l'appoggio del prefetto. A lui gli preme tenerci buoni. Cioè, è il colmo, no? Doversi servire del prefetto». Ferranini ebbe un sorriso un po' tirato. «Tu conosci il manifesto comunista del 1848? Di un po'. O conosci solo i manifesti delle corse al trotto?» La fronte liscia di Viscardi si offuscò. «Sono sempre stato uno studioso io. Ti consiglio di leggerlo. C'è una pagina che dice: la borghesia è formidabile come forza assimilatrice, trasforma la gente a sua immagine e somiglianza, anche quelli che dovrebbero combatterla». Ferranini era già sulla porta. «Ti saluto, Viscardi». Montò accanto a Bignami facendogli cenno di partire subito. Ma era contento di non aver perso la calma. E mentre l'auto spartiva nebbia e traffico della via Emilia, cercò di riepilogare senza pessimismi. Non aveva fortuna. Quel ritorno a casa non era un successo, no. Però, infine, Reggio può rimanere la Kiev italiana malgrado un Viscardi o un Ancillotti. Il culto della personalità è deformante anche in termini negativi se significa la condanna di una situazione per un paio di prevaricanti individui. Bignami lo richiamava a Favellara, dove erano diretti. Molto attiva sul terreno cooperativistico, con i suoi 3.000 abitanti, Favellara è stata in tempi non lontani un feudo dei riformisti turatiani che puntavano, come dappertutto, sugli istinti affaristici degli operai. Avvenne, fra l'altro, che i muratori ben organizzati nelle loro mutue e solidali con quelli dei paesi vicini imponessero per le costruzioni prezzi più alti di quelli delle loro imprese private, instaurandosi un monopolio locale gretto e prepotente come i monopoli capitalistici. «Sta tranquillo», disse Bignami. «Non capita più. Quando ai riformisti si sostituiscono i comunisti, l'atmosfera cambia». «Sei proprio sicuro?» domandò Ferranini. Rise, ma senza amarezza. Furono accolti dal sindaco e dagli altri notabili, arciprete compreso. Ricorreva il 60° anniversario di un'associazione operaia, una delle più antiche del Reggiano, e il paese era in festa. Visitarono una fabbrica di mattoni, un mobilificio, diverse stalle di nuovo impianto, tutte aziende sociali. Dopo pranzo ci fu una bicchierata alla Casa del Popolo. Ferranini non se la sentiva di parlare. Pensava di cavarsela con quattro chiacchiere in dialetto, ma gli venne in mente un'esperienza che aveva fatto varie volte. Gli uomini più giovani di lui, operai, contadini, scansavano volentieri il dialetto e il tono dialettale, persino fra loro. Ci vedevano i segni di un'arretratezza, di un isolamento, che preferivano lasciarsi alle spalle, come la bicicletta e la capparella col bavero di coniglio. Quando Mingoni, un giovane sui 30 anni che lui aveva conosciuto ragazzo e adesso era rappresentante sindacale e gerente della Casa del Popolo, si fece avanti per porgergli un saluto, il suo modo di esprimersi fu semplice, cordiale e corretto. «Non stare a fare un discorso, Ferranini. Tanto le idee che hai tu le abbiamo noi. Ci basta vedere che ti sei ricordato di noi anche adesso che sei a Roma. E ti ringraziamo, sinceramente». «Sapete, ragazzi», disse Ferranini, passando il braccio sotto quello di Mingoni, «che cosa stavo pensando? Che adesso nei paesi parlate tutti in lingua. E questo è un bene, perché proletari di tutto il mondo unitevi, e per unirsi bisogna intendersi, raggiungere almeno il livello della lingua nazionale e lasciar perdere il reggiano, il modenese o il piemontese. E la retorica borghese, magari mascherata di sinistrismo, che vorrebbe confinare il mondo del lavoro nel pittoresco e approssimativo, del dialetto o del gergo. Sicché niente dialetto, ma neanche discorsi di alta politica. Vi dico solo questo. Se vogliamo resistere all'ostilità delle aziende private, noi delle cooperative dobbiamo fare due cose. Ferranini, interruppe una voce. Bada che in sezione il ritratto del compagno Stalin, noi ce l'abbiamo ancora. E se aspetti che io ti dica di levarlo, aspetti un pezzo. Due cose dunque dobbiamo fare. Istruirci, guardarci dall'empirismo e dall'improvvisazione. Secondo, restare compatti, evitare le rivalità nel nostro stesso campo. E c'è un'altra cosa, compagni, da evitare, di essere soltanto degli amministratori e di riprodurre l'idolatria del profitto e della proprietà che è tipica del capitalismo. Volerci bene tra di noi e non attaccarci troppo alle cose e al guadagno, l'essenziale è questo. E per questo conservate lo spirito proletario delle vostre organizzazioni, che devono restare proletarie in alto come in basso negli scopi effettivi che si propongono e non solo nelle forme. E il partito vi aiuterà e io, per quel che posso, vi aiuterò. Uno dei presenti, arrivavano al centinaio, alzò la mano. Era un giovanotto in tuta e parlò con accento meridionale. «Qui non siamo tutti iscritti al partito. Io sono socialista e nemmeno comunista». «Sei un lavoratore?» replicò Ferranini. «E allora basta. Prima viene il lavoro e il lavoratore, poi i partiti». «Sentite, vicino a Favellara nacque Camillo Prampolini, che conoscerete almeno di nome, un socialista che potrà parere superato, ma una persona onesta e sincera. Una volta Prampolini disse: se dovessi scegliere fra la coerenza politica e il benessere dei lavoratori, sceglierei il bene dei lavoratori. Per i teorici quella era un'eresia, perché socialismo e benessere del proletariato debbono coincidere, e io credo che coincidano. Però vi garantisco che c'è una sola cosa importante: fare in modo che i lavoratori soffrano un poco di meno di quanto hanno sempre sofferto, da quando esiste la collettività umana. Tutti i lavoratori hanno diritto a questo, e pazienza se non la pensano come noi. Applausi, altra bicchierata. Bignami si fece largo, presentò a Ferranini un uomo sulla cinquantina, largo e ben vestito. «È Minelli Scheckfrido, amico mio e anche tuo, lo riconosci?» Stentava a riconoscerlo. «Spagna, Parigi e America insieme, oh, i Ferranini, mi rinneghi!» Era esatto. Per quasi 2 anni, Scheckfrido Minelli, ex maestro di scuola a Favellara, aveva diviso la sua sorte in Spagna, a Pessì, in America, infine. E quando aveva sposato Nancy, Minelli aveva fatto da testimonio. No, non lo rinnegava. Lo seguì in casa della sorella dove era ospite, giunto giorni prima da New York con moglie e passaporto statunitensi. 2 ore, e per Ferranini l'immersione forzata in acque torbide. Minelli le rimescolava senza pietà, con l'ignaro piacere dell'individuo che del passato ha solo da lodarsi. E come, fra l'altro, si era arricchito. «Fatti ricordare dove abitavo a Queens, fatti ricordare la trattoria italiana a Camden che ci andavamo per Pasqua!» E dei ricordi, era prevedibile, Ferranini non si sarebbe liberato presto. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.